questa notte mi inviti a sognar, mentre soffro e non so più scordar il mio perduto amor. Dimmi cos'è questa musica strana che tu dolcemente sussurri qua giù e fa più triste il cuore. Dal cielo scende su te come un manto d'argento e in quest'incanto tristezza e pianto tremano in me. Forse sarà la musica del mare che nell'attesa fa tremare il cuore. Torna ogni vena e tu non vuoi tornare con lacrime amare. Versare fai tu, mare sei tu, che una sera portasti il mio cuore in un sogno di nuvole d'or che mai non scorderò. Corri laggiù, la sua sponda ritorna a baciar. Se un istante la fai ritornar, la vita mia darò. Ma l'onda corre e non sa questa voce che implora sulla scogliera lucente nera, mormora e va. Torna ogni vela e tu non vuoi tornare con lacrime amare versare.